Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vi raccontiamo una storia al contrario, almeno al contrario rispetto a come vanno le cose di solito, ma una storia come invece ce ne vorrebbero molte altre. Andiamo a Rivoli Veronese e parliamo di un impianto eolico attivo da un anno, realizzato da AGSM, che è una multi-utility nativa dell'area di Verona, che oggi è presente in circa 4.000 comuni italiani. Ebbene, come sapete, questi impianti, gli impianti eolici, trovano molto spesso una agguerrita opposizione da parte della popolazione locale, famosi comitati del no, effetto NIMBY e quant'altro. Qui invece è andato tutto all'opposto, e ora l'impianto eolico di Rivoli Veronese ha anche vinto il premio Buone Pratiche Comuni Rinnovabili di Legambiente, per le ragioni che appunto adesso vi andremo a spiegare. Ne parliamo con il sindaco di Rivoli Veronese, sindaco uscente Mirko Campagnari. Buonasera Campagnari. Buonasera a voi. Ebbene sì, è un progetto che è abbastanza singolare, perché è partito da un'amministrazione che è andata a cercare un'azienda, in questo caso AGSM, perché è conosciuta sul nostro territorio, e ha voluto fare un processo un po' evolutivo al contrario, coinvolgendo sin da subito, anche nella fase progettuale, la popolazione, le associazioni ambientaliste, la forestale, tutti quelli che sono i portatori di interesse sul nostro territorio. Quindi avrete fatto per esempio degli incontri con la popolazione, no? Quanti ne avete fatti? Fatto 4-5 incontri pubblici, dove eravamo partiti con un progetto da 8 rigeneratori, anche più piccoli, però molto più impattanti. Invece abbiamo detto subito no, abbiamo calmierato con l'azienda l'evoluzione progettuale. Ok, invece insomma di trovarsi di fronte al fatto compiuto di ingaggiare poi la lotta per impedire che si facesse la cosa, diciamo, avete contrattato sin da subito, cioè, quello che vi andava bene. Da subito che abbiamo voluto dare la nostra impronta di come coniugare il nostro territorio, ovviamente okay, con rispetto per l'ambiente, anche perché siamo in una zona vincolata, bisogna dirlo, ecco, una zona SIC e ZPS, quindi la rinaturalizzazione di questo ambiente doveva avere la sua parte. È stata la componente che ci ha permesso di portare a termine, malgrado l'iter procedurale di 7 anni per 4 mesi di lavoro, in Italia però lo sappiamo così. Però l'aspetto ambientale ha avuto la parte. Ecco, ma ci dica che cosa avete fatto, avete raccolto? No, ci sono molte specie di orchidee in particolare in quella zona, orchidee selvatiche. Oltre 100 orchidee che sono state proprio prese nelle sementi nella fase prima dei lavori, adesso sono tutte rimpiantumate nell'area dove si stanno per finire anche i percorsi naturalistici. Esatto, ci sono. Insomma, quindi tutta un'operazione complessiva. Tra l'altro, per le famiglie del posto, l'utility ha garantito uno sconto, diciamo, del 20% allora, sulle proprie tariffe, no? Cosa importante. Esatto. Questo ci ha permesso, questa ovviamente coprogettazione, di essere più vicini all'azienda, certo, stessa, e quindi di spuntare qualcosa meglio. Acquistiamo, oltre 100 aziende di Rivoli acquistano energia verde al prezzo all'ingrosso, senza nessun ricarico. Ci sono delle royalty per il comune. E l'aspetto più importante è l'iniziativa che abbiamo messo in piedi da poco delle obbligazioni che possono trasformare in public company. Eccoci qua, perché siamo arrivati all'aspetto più innovativo in assoluto, che è proprio questo qua. Quindi una emissione di obbligazioni da parte dell'utility, in realtà dalla società che è stata costituita per fare il parco, no? Più certo, correttamente, che sono rivolte esclusivamente alla cittadinanza, con diciamo delle buone condizioni. Ci spiega un attimo? Beh, saranno dei bond garantiti al 6,5% annue sul investito per 7 anni, cedola annuale, per arrivare un domani a trasformare queste obbligazioni magari in azioni nella public company vera e propria. Che è un passo che non avete voluto fare subito, perché la public company ha dei componenti anche di rischio, molto, anche di possibilità di guadagnare di più naturalmente, ma anche di rischio superiori, per cui avete detto andiamoci un po' con i piedi di piombo, no? È questo il punto. Senza dubbio, voglio dire, sono momenti dove i segnali non sono dei migliori. Ecco, e io aggiungo invece una cosa, perché poi la public, come mai questa utility, no? Cosa fa? Beneficenza? No, è un modo del tutto evidente di legare i propri interessi e quelli della comunità in questione. Cioè è difficile che da quella comunità venga un domani la proposta di demolire i generatori, per esempio, visto che ci sono tanti azionisti nella comunità stessa, no? No, anzi, ho già avuto dei contatti per andare a fare testimone in altri punti d'Italia di questo esempio. esempio. Insomma. Allora, grazie Campagnari e buona fortuna per il suo tour, diciamo così. Grazie a voi per aver risollevato l'attenzione del mio paese. A domani.